il venerdì di Radio Città Fujiko per questa finta diretta porterà il torrione nelle vostre case, nelle vostre radio, anche nel vostro streaming dal link www.radiocittafujiko.it. Quindi inizieremo aspettando anche il Bologna Jazz Festival per quello che sarà nell'imminente weekend, il Torrione Jazz Club di Ferrara. Con me che sarà sottoposto a un test di ascolto non indifferente, Alfredo Pasquali. Buongiorno Alfredo. Buongiorno, aspetto il fuoco nemico. È il fuoco nemico in questo caso, verrà protagonista un trombettista che già ti mando, guarda, per il primo brano che abbiamo in playlist. Ti posso dire che lui ha interpretato uno standard secondo me bellissimo insieme a Joe Anderson, che ti parla di una bossa triste. Adesso intanto ascoltiamo questo brano che è il primo in playlist, per poi rientrare con quello che abbiamo ascoltato al Torrione nel weekend appena trascorso, e poi daremo il via alla programmazione settimanale, anzi fine settimanale, al Jazz Club il Torrione di Ferrara. A tra poco. Allora, per bossa triste non intendevo una bossa di Squarsa, malinconica. Malinconica, ok, non sono stato preciso nella traduzione, però con Joe Anderson, quest'autore, Blue Bossa è stato uno dei brani che per Blue Note ha avuto importanza nel mondo dell'hard bop. Stiamo parlando di Kenny Doran. Tra l'altro la Blue Note aveva sempre inserito un pezzo con il sabor latino, c'era sempre, perché era sì, un po' un marchio di fabbrica. L'ho inserito anche nella playlist di oggi per quanto riguarda le nostre chiacchiere tra... Ma qual era? Allora, con Art Play che hai detto questo intermezzo nel lanciare l'assolo di particolare intensità. Se vogliamo riconoscere Kenny Doran, invece su cosa dobbiamo orientarci? Che non c'è niente di particolare. È per quello che hai detto, non lo disprezzo, ma è mediocre. No, è una seconda linea. Cioè, sì, chiaramente noi parliamo di, Freddie Hubbard, cioè Howard McGee, Booker Little, cioè parliamo di giganti, allora di quelli certo. Lui è un vari partner affidabilissimo, ha fatto 1000 formazioni, i suoi dischi non eccellono, dice la verità. Però è di piacevole ascolto anche. Sì, vabbè, no, ma un professionista di crismi. Sì. Diciamo che nel Parco delle Stelle lui sta un po'... Non c'entra niente con Clifford Brown, vuoi no, dire? Proprio no, proprio nulla. No, ok. Ascoltati per voi allora l'ultimo main concert al Ferrara Jazz Club stagione 2023-2024. Odd Telmore Back to the Land, nella ricerca per le sonorità di Ornette Coleman, Huey Redman, passando per l'Iconitz. Giustamente mi chiedevi, sono curioso di sapere come hanno messo assieme il cool jazz con il free jazz. Sì. Domanda lecita. L'hanno fatto in maniera assolutamente, mi permetto, gustosa, cercando di comunicare con il pubblico, mai di maniera, ma con un'interpretazione, la parola giusta. È un grande interprete, Odd Telmore, al sax tenore, sa comunicare e lo fa bene. Ha portato brani che sono, oltre che allo standard, anche di originalità particolare. Certo che quando insieme a musicisti Joel Ross al vibrafono, Chris Tordini al contrabbasso, di una precisione millimetrica e un interplay per perfetto, lui un batterista veramente molto intenso. Ecco, lui, per chi è appassionato di batteria, io aggiungo nella capacità di saper essere leader silenzioso. Lui è stato interprete non di un grande assolo, però ha avuto la capacità di saper dare al momento giusto la palla per la realizzazione al momento perfetto per lanciare l'assolo di ogni elemento di questo quartetto. Joe Ross è stato monumentale. Sì, monumentale. Questa nuova figura della stella jazz qui dentro, ecco, esattamente. Ma Talmor, diceva anche che aveva questo disco, queste incisioni, forse che sì, forse che no, lui ha recuperato comunque gli spartiti, sì, di quell'incontro tra Coleman e Conis, e poi li ha rielaborati, e buona parte erano presenti in questo concerto. Certo, alcune parti con degli standard ho riconosciuto un Round Midnight, per dire. Che non è esattamente di Ornette Coleman, quindi c'era anche. No, certo, sì. Esatto, come abbiamo già detto, la capacità di saper comunicare con il pubblico ha avuto la parte importante nel alzare l'asticella, ma farlo sempre con una grande capacità, mai banale, mai di maniera. Bellissimo concerto, confermato anche dal nostro Sandro Baroni. Sì, quando Sandro è contento, siamo contenti tutti. Quel carosello, gli incontentabili. Allora, io ne ho rubato una breve parte con al sax tenore Hot Talmor, e poi passeremo al E da questa parte di concerto che abbiamo estratto la musica a proposito di incontro tra Lee Konitz e Dewey Redman, che tu hai riconosciuto, Alfredo, anche nel fraseggio. Ma stavo ragionando su una cosa completamente diversa. Immagino che tu abbia registrato, io non c'ero, dal posto col telefonino, no? Hai rubato queste note. Sì. Beh, la qualità di incisione, una volta questo superava tanti dischi super blasonati. Ufficiali! Quando uscivano quei dischi vinile Jazz Connoisseur, che tu sentivi se no una batteria in sottofondo e li compravi questo fossero colato. E questa invece è un'incisione perfetta. Bene, sarò un ottimo fonico. E per quanto riguarda invece il weekend che ci attende, avremo allo stesso modo un momento di spazio dedicato al main concert, ma inizieremo con il venerdì al Torrione, dove anche un amico di Radio Città Fujiko, mi permetto di dire, Fabrizio Puglisi, insieme a un batterista, e non solo, perché ci sarà anche l'orchestra creativa del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Fabrizio Puglisi insieme a Gunther Baby Sommer. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di questo batterista, Alfredo? Sì, è un batterista che ha seguito le orme dell'avanguardia, sia quella americana, Leo Smith, Badada, e anche quella europea. E direi che sarà interessante sentirlo con Puglisi. Puglisi è un musicista estremamente versatile, eclettico. Lo troviamo dalla bossa nova fino all'avanguardia, passando per il bop, quindi e sarà interessante vedere com'è l'incrocio, questo non bivio ma trivio, tra Puglisi, questo batterista, Gunther Baby Sommer, peraltro, e l'orchestra, secondo me, l'orchestra di Frescobaldi. Sì, è un baby comunque che alla sua età. È un baby cresciutello, sì, perché alla sua età, però molto attivo. Quando uno c'è un soprannome se lo porta fino alla tomba. Sono quelle etichette che difficilmente riesci a togliere. Allora, come sarà strutturato? Ci teneva anche Fabrizio a portare conoscenza, ascoltatrici e ascoltatori. Intanto ci sarà un momento in duo tra Puglisi e il protagonista Gunther Baby Sommer, dopodiché avranno in maniera alternata la possibilità di dirigere l'orchestra creativa del Frescobaldi di Ferrara, e poi in seguito alla serata ci sarà la session che concluderà questo momento in un appuntamento fresh and bold per i venerdì di Radio del Torrione, che noi presentiamo su Radio Città Fujiko. Ascoltiamo allora Fabrizio Puglisi, che a sua volta entrerà in maniera più specifica nell'incontro tra lui e Gunther Baby Sommer. Sentiamo le sue parole. Io e Gunther Sommer collaboriamo da più di 10 anni, in effetti. Suoniamo insieme, abbiamo suonato con ensemble più grandi, ma poi nell'arco di 10 anni abbiamo suonato moltissimo in duo, che è stata per me una grandissima opportunità, perché Gunther Sommer è un musicista, è uno dei pionieri del jazz europeo. È un musicista che per tantissimi anni dagli anni 70 ha inciso e collaborato con grandi del jazz europeo, quindi Joe Leandre, Peter Kowald, Peter Brotzmann, Alex von Schlippenbach, ma anche con i grandi dell'improvvisazione dell'avanguardia afroamericana. Ha inciso con Cecil Taylor, ha inciso con Badada, Leo Smith, quindi per me in duo, tra l'altro. Quindi per me l'occasione di suonare in duo con Gunther è stato veramente una grandissima fonte di ispirazione. E quindi dopo 10 anni che abbiamo suonato insieme, da vari concerti che abbiamo registrato dal vivo, io ho estratto alcuni brani e ho fatto uscire un anno fa un disco che si intitola Elements, che è uscito da etichetta Out Records, e con Gunther continuiamo a collaborare. Adesso mi ha invitato a Dresda per qualche giorno, c'è stato un piccolo festival che serviva a celebrare i suoi 80 anni. Nonostante gli 80 anni, l'energia di Gunther Sommer è sempre incredibile. Ho suonato in questo festival a Dresda e adesso l'ho invitato per una masterclass al Conservatorio di Ferrara con un gruppo di studenti bello nutrito, in più di una ventina di ragazzi, con i quali nell'arco dell'anno svolgo un lavoro su varie strategie per l'improvvisazione. E insomma, coronamento del percorso che abbiamo fatto nell'arco dell'anno, arriva alla fine Gunter Sommer per questo workshop. Ma io lavoro con i ragazzi anche nell'arco dell'anno fargli avere un primo approccio a un'improvvisazione che non è l'improvvisazione tradizionale jazzistica, all'interno di strutture di un certo tipo. Anche perché poi in realtà anche con Gunter Sommer si lavora su un repertorio, è un repertorio con brani che sono strutturati, tra l'altro, ma non, diciamo, secondo le strutture tradizionali. Ma poi questo è anche relativamente vero, perché suoniamo anche dei blues, delle cose. Semplicemente devo dire che i ragazzi sono molto, molto attenti, molto curiosi e hanno molta voglia di imparare anche su questi nuovi linguaggi. Certo. Che spesso sono quelli che mancano nei percorsi didattici tradizionali dei conservatori, soprattutto dei corsi di jazz, sempre più irregimentati da una didattica un pochino troppo quadrata, che non mira più a farne dei professionisti, sì, ma non mira troppo a sviluppare le loro capacità creative. E questo indubbiamente è un'occasione in più, nonché un valore aggiunto all'interno del cartellone del Jazz Club di Ferrara. Orchestra creativa, la rassegna è Fresh and Bold. Gunter Baby Sommer alla batteria, Fabrizio Puglisi al pianoforte e alla direzione. Io, Fabrizio, ti ringrazio tantissimo e ci vediamo al Torrione allora. Grazie a voi, William, buona serata. Beh, ringrazio Fabrizio Puglisi per l'anticipazione di questo concerto che sarà questa sera al Torrione. Il brano che stiamo ascoltando è in duo e infatti comunque confermo, è grande energia per Baby, una sì. Grande presenza e una capacità di portare in maniera eterogenea questo piccolo brano di 2 minuti, però dove all'interno c'era tutto, c'era tanto, veramente, oltre che energia. Impressionistico fino a quasi quasi un vaudeville. Sì, ho sentito anche alcune parti. Questa è anche pugliese. Beh, assolutamente. Trasversale per la rassegna Fresh and Bold al Torrione. Dicevamo com'è strutturata la serata del venerdì. Allora, ci sarà un momento in duo tra i protagonisti che abbiamo appena presentato. Abbiamo sentito la voce di Fabrizio Puglisi. Dopodiché si alternano in conduzione insieme ai ragazzi del Frescobaldi Conservatorio di Ferrara. Dopodiché al piano di sotto la jam session che contraddistingue le serate al weekend di Ferrara. Saranno in 15, quindi sopra avranno modo di preparare la sala. Abbiamo visto Lione che è riuscito a mettere dentro delle orchestre una sì. sopra l'altro. Però infatti è quello che ho loro chiesto. Loro sfidano le leggi della fisica. Sì, riescono nella compenetrazione dei corpi, quindi ci sarà, è come il Fresh and Bold di questa sera. Dicevamo, Kenny Dorham e la capacità di portare anche delle sonorità afro, delle sonorità con la bossa nova e quant'altro. Questo è Afrodisia, il brano che ci accompagna alla pubblicità, che da un po' conferma quello che abbiamo detto finora su Kenny Dorham. E poi torniamo perché è il momento del main concert di questa settimana e della domenica con Istantanea. A tra poco, buon ascolto! We'll be right back. Radio Città Fujiko, i 103.1 nel venerdì del Jazz Live. Questo altro brano, Lotus Blossom, la fioritura del loto, e per quello che mi ha tradito un po' in inganno la pronuncia del pezzo standard jazz che abbiamo ascoltato in rientro nella diretta del Jazz Live. Anche in questo caso si conferma una grande capacità di gusto, certamente non un musicista come hai detto di prima linea, però dai, capacità di espressione. Ecco, pensandoci, riascoltando, se c'è una caratteristica di Doram è che in qualche modo lui ed altri musicisti come, che so, Coleman, Anderson, rappresentano perfettamente lo stile della Blue Note, tanto caratteristica come le loro copertine. Questo hard bop è un po' quello che molte persone immaginano del jazz, no? Sì. Quello che è il classico jazz da cave. Si sono saputi proporre bene, no, in questo caso. Anche perché bravi. Erano gli anni 60, per me che può essere. Allora, l'anticipazione del main concert, e poi vi daremo ovviamente il responso del secondo main concert stagione 2023-2024. Danny Grissett al pianoforte, non è frontman ma è sideman di questo quartetto, però la mia attenzione è stata portata a questo nome perché secondo me lui grande talento. Jerome Sabbagh al sax tenore, Joe Martin, altro musicista che abbiamo avuto la possibilità di conoscere al contrabbasso, e Cabon Gordon alla batteria. Il frontman è Jerome Sabbagh, è un sax tenore anche in questo caso come Omad Taylor, e nel suo quartetto, come ho evidenziato, le capacità di una interpretazione o di un modern mainstream. Questo ovviamente ve lo sapremo poi riportare nella prossima puntata del Jazz Live. Intanto io ho avuto modo anche di estrarre un po' qualche segmento delle sonorità di questo quartetto. Che dire, l'immagine è quella di un modern mainstream molto con una capacità leggibile e comunicativa, ma sempre raffinato. Tu hai notizie di questo quartetto, Alfredo? Confesso no. Allora lo ascoltiamo, così magari ci facciamo anche un'idea per anticipare quello che sarà il main concert del Torrione. Jerome Sabbagh and il suo quartetto. Thank you. Conoscendo il contrabbassista, conoscendo anche Danny Grissett, che secondo me ha una grande capacità di interpretazione nel cool jazz e anche nell'aspetto di approccio comunicativo con il pubblico, alzando l'asticella di quello che è un aspetto di ascolto colto e anche di interesse comunque per la bella musica, sarà un concerto, appunto. Come ho detto, la linea del torrione di questo programma per me è una linea curiosa per tutte e per tutti. Jerome Sabbagh Quartet, impressioni Alfredo su quello che hai sentito finora? Beh, mi sembra di fare un tuffo nel cool jazz storico con Marshmallow al tenore e Lenny Tristano è bravo, è molto tristaniano questo pianista. Sì, è bravo. E questo contrappunto iniziale, sax, tenore, pianoforte, era veramente di qualità e perfettamente iscritto in una certa estetica del cool jazz e anche gli assoli. Diciamo che è molto un cool jazz storico e quindi devo dire che io, essendo un amante del cool jazz, missione compiuta. Missione compiuta. Anche il finale, c'è tutto, l'uscita, certo. È perfetto. Jerome Sabbagh e il quartetto che porterà il main concert al Torrione, arrivano anche gli applausi. Meritati. Con Danny Grissett, che riascolto con grande piacere al pianoforte, come riascolterò Joe Martin al contrabbasso, Kevin Gordon alla batteria, a completare gli elementi del main concert che sarà sabato 14 ottobre nel programma del Jazz Club Estense. Bene, siamo arrivati alla rassegna istantanea. Cambiamo atmosfera. Assolutamente, ma tutte le domeniche al Torrione hanno una modalità diversa per quello che è una atipicità della proposta musicale. Troviamo questo nome che sa molto di supereroe, che è Nickel Cosmo, che incontra il progetto Jestern. Torniamo invece all'anagrafe con Flavio Zanuttini alla tromba e sintetizzatore, Alberto Novello sintetizzatori ed elettronica. Io ho contattato Flavio Zanuttini per conoscere meglio l'approccio che c'è in questa espressione legata al modificare il suono della tromba. Come viene modificato in questo caso? Non attraverso lo strumento stesso, ma nella proposta di uscita del suono, cioè nello scontro che vi è con un gong o con un piatto da batteria, che con la rifrazione del suono si gioca sulle vibrazioni. Sì, sulle vibrazioni, esattamente. Poi ascolteremo anche un brano riportato in playlist per questo Jet Live, ma prima vediamo di entrare più nel progetto che vi ho appena descritto per la domenica del Torrione con Flavio Zanuttini e appunto sentiamo le sue parole. Allora, il progetto si chiama Nickel Cosmo, è uscito il primo disco dopo due EP dell'anno scorso, questo a fine maggio è uscito il disco che si intitola, in principio era il Nickel, prodotto dalla casa discografica Record Y. È un progetto che mischia musica elettronica partendo anche da strumenti acustici. Io sono un trombettista originariamente. Questo progetto si basa sulle risonanze che si riescono a generare quando io suono con la tromba contro un gong. Da queste risonanze che vengono prese e rimanipolate elettronicamente parte tutta l'idea del progetto. Il progetto ha in sé anche una storia che vorrebbe essere pubblicata a fumetti in futuro, che un po' narra la storia appunto di Michel Cosmo, che è un personaggio di fantascienza. Invece Alberto Novello, con il nome di Jester, lui lavora molto nella musica elettronica da molti anni e questo sarà un primo incontro dal vivo, questi due progetti. Sì. Abbiamo collaborato in passato, ma era un progetto diverso. Quindi... Aggiungevo anche che mi dà l'idea di un supereroe Michel Cosmo. Sì, sì, l'idea è quella. Certo. L'idea è quella. Come viene bilanciato nelle sonorità? Cioè, è un aspetto di scrittura, di improvvisazione oppure un linguaggio più esteso, più articolato? Com'è il rapporto sia tra l'elettronica e l'aspetto acustico? Di base il progetto si basa sull'improvvisazione. Ma con lo strumento acustico l'improvvisazione è molto più libera e si apre a molti più panorami, mentre invece a livello elettronico le scelte sono in qualche modo più ridotte, questo è quanto. Però la musica non viene preparata prima. Ok. E per questo progetto hai detto che avete preparato anche un disco, ce ne puoi parlare? Allora, il disco, quello è uscito a nome Michel Cosmo e lì sono solo io. È uscito a fine maggio per Record Y, l'etichetta di Frank Martino, e l'ho fatto in collaborazione con Michele Bonifati, che ha curato la produzione artistica. Io ho registrato, lui ha fatto tutto il mixaggio e assieme ha pensato anche gli arrangiamenti dei singoli brani. È un disco di musica elettronica con le parti acustiche, ci sono anche dei campioni vocali presi da telefilm di fantascienza degli anni 60. Vuol dire che ha avuto una buona risonanza durante l'estate. Bene, quindi vi aspettiamo per il concerto a Ferrara, che sarà domenica 15 ottobre nella rassegna sericotonale curata da Istantanea. Grazie Flavio e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E in effetti quello che è stato appena presentato con questi riverberi, ma allo stesso tempo anche una capacità di nuovo per quella che è l'elettronica e la tromba. Abbiamo, no, dei trombettisti come Ben Neal, tra l'altro, che davano in maniera ritoccata le sonorità più consuete della tromba, e in questo caso con l'elettronica, ma anche con una scrittura che certo è leggibile, ma dal timbro particolare. Per la rassegna sericotonale a cura di Istantanea, Flavio Zanuttini, tromba e sintetizzatori, Alberto Novelli, sintetizzatori ed elettronica, Nickel Cromo, anzi Cosmo, Nickel Cromo è un altro Mitz Gestern. Beh, però è un nome da, anche da fumetto, da supereroe. Ma tipico di fumetto, ma credo che sia volutamente da fumetto. Sì, l'ha anche detto durante le interviste. Sembra il nemico di Batman. Può essere un cattivo dei fumetti. Cattivissimo, Mr. Cosmo. Cattivo. Che arriva dalla, dalla galassia 18. E siamo arrivati al termine, concludiamo in maniera circolare, come abbiamo iniziato, Una Mass, il brano di Kenny Dorham, che è l'artista protagonista sotteso per quest'oggi, ma non tanto, è stato base un po' della nostra conversazione, sia con gli artisti che tra me e Alfredo Pasquali per la puntata di Jazz Live, che vi dà appuntamento a venerdì prossimo. Intanto con il Torrione noi continueremo a seguire tutta la stagione, oltre che aspettando la nuova edizione del Bologna Jazz Festival. Oh, che si avvicina, eh? Si sta avvicinando. E con dei nomi molto interessanti. Beh, avremo modo di portarli anche in frequenza su Radio Città Fujiko. Ma per adesso un buon weekend, ciao. Un buon ascolto. Ciao a tutte e ciao a tutti.